Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, sono le 11.12, quindi corriamo al nostro sommario con Filippa Oreggi, regia la parte tecnica, e Laura Vanossi in redazione. Andiamo! Vergogna, un'emozione potenzialmente tossica. Un pacemaker contro il Parkinson. Germogli, energia in tavola. La vergogna, che cos'è, perché a qualcuno cambia la vita e come si può vincere quando diventa un problema? Questo è il tema che vorrei affrontare oggi insieme a voi. Per alcuni non sarà facile, ma io credo che valga la pena provare a dare voce a questa emozione che sperimentiamo proprio quando pensiamo di aver perso la faccia. Entreremo nell'ABC di questo tema grazie al nostro ospite che è qua in studio con me, un amico di Essere Benessere, il professor Luigi Anolli, direttore del CEP, che è il Centro Studi per le Scienze della Comunicazione presso l'Università Bicocca di Milano. Buongiorno, buongiorno professore. A te e a tutti quanti. Allora, il professor Anolli ha dedicato alla vergogna un bellissimo volume, si intitola appunto La Vergogna, edito da Il Mulino. Il sottotitolo, professor Anolli, mi è piaciuto in modo particolare perché è quando la nostra immagine va in frantumi. Sì. Poi, mi piace molto. Intanto saluto anche Alberto Pellai. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Che come sempre quando parliamo di psico ritorna un po' come il papà della trasmissione. Questa casa non è un albergo. Professor Anolli. La vergogna è un'emozione sociale fondamentale che è molto intensa e anche molto tossica, è prodotta da un cambiamento improvviso della nostra immagine, del nostro sé sostanzialmente. Sì. È per questo che noi andiamo in frantumi, è per questo che la nostra immagine, come segnato qui, va in frantumi, e la conseguenza di questo è il desiderio di sparire, il desiderio di diventare invisibili, è il desiderio di sprofondare sottoterra, che nessuno ci guardi, che nessuno ci parli, eccetera, eccetera. E la vergogna nasce da un fallimento, che può essere una violazione e trasgressione, può essere un insuccesso serio, prestazione di lavoro, anche sessuale, voglio dire, ecco, di vario genere, e da quello che è un, come dire, una delusione profonda nei propri confronti di se stessi, delle proprie aspettative. I confini sono molto labili, ad esempio la vergogna è timidezza. Ma la vergogna e timidezza sono due aspetti molto diversi, perché la vergogna è un'emozione, la timidezza è più un tratto del temperamento, è più un tratto di personalità. Allora la timidezza è qualcosa di permanente, sì, è già presente nei neonati si può già vedere, queste sono tutte le serie, con la presenza di cortisolo nella saliva, lì si vede se bambini piccoli sono predisposte alla timidezza oppure no. Mentre la vergogna è un'emozione, quindi è un episodio contingente, circoscritto, da cui se ne può venire fuori, oppure può essere l'inizio di un vero baratro che porta all'omicidio, al suicidio, alla depressione, a situazioni anche molto gravi. Però è di per sé un episodio. Alberto, secondo te quindi la vergogna possiamo definirla come la paura del giudizio degli altri? Ma ci vuole proprio lo sguardo dell'altro, l'occhio dell'altro, il dito puntato dell'altro su di te per farti sperimentare quell'emozione. Se ci pensi è proprio anche un tema cruciale nel lavoro educativo, perché c'è proprio tutta quella che venne chiamata la pedagogia nera, che era una pedagogia centrata sulla vergogna e molto finalizzata a far sentire il bambino piccolo, incapace, spesso degradato e umiliato. Tutto il sistema delle punizioni nelle scuole dell'Ottocento, in molti stati europei ben raccontati per esempio da Alice Miller, si fondano su questa pedagogia della vergogna, che ha in realtà generato poi una miriade di problemi anche a livello sociale. Per qualcuno, lo racconta anche Michael Haneke nel film Il Nastro Bianco, che ha generato molto dibattito, proprio quel genere di pedagogia e di educazione ha portato poi a fenomeni come per esempio la diffusione del nazismo nella Germania. Parleremo anche della vergogna che si prova soprattutto in una fase particolare della nostra vita, l'adolescenza, sì, no? Di riguardo al proprio corpo. Riguarda il proprio corpo, ma non solo. Io chiedo ai miei amici di casa di aiutarci a disegnare un po' il profilo della vergogna con proprio episodi del quotidiano. Quando è l'ultima volta che avete provato vergogna di voi stessi? Cosa avete fatto per uscire da quell'imbarazzo? Il professor Anolli Crolli diceva, e ci sono tanti modi di dire, no, legati alla vergogna, vorrei sprofondare, ho perso la faccia, sì, e vorrei sparire, sì, che sì, figuraccia. Parleremo anche del linguaggio non verbale di questa emozione. 800 24 0024, se volete intervenire, i messaggi al 349 238 6666. Una mela al giorno. Si torna a parlare di un pacemaker che cura il Parkinson. L'avevamo già trattato questo tema, ritorna oggi sull'inserto della stampa, c'è un articolo riportato da Tutto Scienze. In linea con noi vogliamo riprendere questo tema, dare le informazioni giuste ai nostri ascoltatori. Ci facciamo aiutare dal professor Alberto Albanese, che è direttore della prima neurologia all'Istituto Neurologico Carlo Bessa di Milano e professore di neurologia all'Università Cattolica. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno. Dagli anni Ottanta al Besta si utilizza, si applica questo pacemaker. Ci vuole raccontare in che cosa consiste? Sì, è un pacemaker che somiglia a quelli cardiaci, che però controlla un filo che va a finire in profondità nel cervello o in altri casi in superficie all'esterno del cervello, ci sono varie possibilità, e che emette una corrente elettrica che controlla alcuni sintomi neurologici. Quindi emettendo questa corrente si bloccano alcuni disturbi neurologici. Ad esempio, professore? Ad esempio, ora si usa nel Parkinson, era stato inventato per il tremore, poi si è capito che tutti i sintomi motori del Parkinson possono migliorare, si sta sviluppando lentamente una psicochirurgia, alcune indicazioni di tipo psichiatrico non trattabili con i farmaci, alcuni movimenti involontari come la distonia, come i tic, oggi si curano con questa metodica. Professore, è un intervento particolarmente difficile, invasivo? È un intervento invasivo, richiede molta capacità di lavoro in equipe, non è eseguito da una sola persona, è eseguito da una squadra multidisciplinare, ci sono neurologi, neurochirurghi, psichiatri, psicologi, neurofisiologi che lavorano tutti in equipe. È importantissimo selezionare bene i pazienti, la selezione del paziente è la chiave per il successo. E professore, chi è il paziente allora candidato a questo pacemaker? Nel caso della malattia di Parkinson è una persona relativamente giovane con dei sintomi motori poco controllati dai farmaci, ma con una forma di Parkinson non troppo avanzata. Non è una terapia, come si pensa a volte, di ultima spiaggia, è una terapia che si fa nelle persone che hanno una riserva biologica e sulle quali si può investire trattandole con una metodica chirurgica accanto ai farmaci. Professor Albanese, migliora la qualità di vita del paziente, ma qualcosa cambia, è così? Sì, quello che cambia un po' è il carattere, cambiano alcuni aspetti psicologici, per cui è importantissima, come ho detto, la selezione, ma è importante molto seguire anche i pazienti dopo. Cambia l'impulsività, cambiano alcuni aspetti della capacità di scelta, che diventa anche più impulsiva e quindi meno controllata, quindi ci sono delle sottigliezze che vanno seguite perché possono diventare molto importanti qualora vengano trascurate. Professor Albanese, la ringrazio per essere stato con noi e le auguro una buona giornata. Grazie. Pronto soccorso. Siamo tornati insieme, riesploriamo il territorio della vergogna insieme al professor Luigi Anolli, che a questa emozione ha dedicato un libro edito dal Mulino, e ad Alberto Pellai, con cui esploreremo soprattutto questa emozione che pervade molti dei nostri adolescenti. Un'emozione, professor Anolli, molto complessa e intrigante, perché sì, ha più nature. Ha più facce, sì. Più facce. Ha più facce, perché da una parte la vergogna è la sensazione del baratro, dell'abisso, da una parte, e quindi del fallimento totale che può condurre, ripeto, in diverse condizioni, i processi, i manager, eccetera, al suicidio, o quando la vergogna si trasforma in una rabbia delirante, all'omicidio, perché si ritiene qualcuno responsabile della mia perdita di faccia, di identità, sì, e di immagine. Dall'altra parte però la vergogna ha anche degli aspetti positivi, perché la vergogna ti dice il limite oltre il quale tu non puoi andare, quindi è il senso del confine, e se tu vai oltre il confine c'hai proprio l'abisso, e quindi da questo punto di vista è la garanzia del lecito, è la garanzia della convivenza. Se tu provi vergogna vuol dire che sei uscito fuori da questo confine, da questo territorio, e quindi tu vai a minacciare non soltanto la tua immagine ma anche le relazioni con gli altri, perché sì, il convivere civile non è più di qualità. Certo. Abbiamo Alessandro che ci chiama da Genova, 824 0024. Alessandro, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io volevo raccontarvi un'esperienza che ho fatto recentemente e che mi ha, diciamo che può essere inserita in questo contesto. Io faccio un lavoro molto particolare che ci siamo praticamente inventati, sono un consulente al trattamento dei dati e alla privacy. Sì. Aumentiamo sempre di più i clienti e recentemente ho preso un cliente particolarmente importante, fuori diciamo target rispetto a quello che usualmente gestiamo. Nella riunione direzionale con top manager e quant'altro mi sono trovato a essere screditato piuttosto che avere delle persone che anziché capire cercare di sfruttare la mia professionalità si sono contrapposte analizzando la mia attività e cercando di identificare delle diciamo degli aspetti, dei parametri che non erano leciti, più sì, comunque disattendevano le loro aspettative, e questo mi ha creato una grossa tensione e un imbarazzo e una necessità di interrompere quella riunione, cosa che poi fisicamente non ho fatto, ho fatto forza su me stesso, necessità di interrompere quella riunione per evitare di continuare a provare quell'emozione. Lo strumento che io ho utilizzato per evitare di collassare, sì, emotivamente all'interno di questo ambito è stata la ricontestualizzazione della situazione, ovvero sia io cercavo di evitare che la mia immagine fosse lesa. Sì, andasse in frantumi, come direbbe il professor Anolli. Incrinata la mia immagine ai miei stessi occhi e agli occhi del cliente, quindi avere un cliente che era scontento piuttosto che deluso, e ho ricontestualizzato pensando che comunque l'attività che svolgevo poteva essere fine a se stessa e l'aver acquisito un cliente, avere operato con etica e con professionalità era il mio traguardo, indipendentemente da quello che poi pensava il cliente e dalle contrapposizioni che aveva in sede di riunione. Quindi, professor Anolli, Alessandro ci racconta, sì, sì, che in qualche modo c'è questa emozione che ci invade, ci pervade, ci manda in frantumi, ma Alessandro è riuscito a ricontestualizzare il, sì, tutto. Questa e a non perdere la faccia, certo, con se stesso, questo, e col cliente. Si è comportato molto bene Alessandro, e questa è una tipica causa della vergogna, cioè quando qualcun altro mi attacca, mi offende, mi critica, mi insulta, quando anche ho fatto bene, sì, senza motivo, è la pedagogia nera di cui parlavamo prima. Allora, questo insulto in alcune culture, tipo del nord, passa inosservato, si chiudono in se stessi e tutto finisce lì. In altre culture, come quelle italiane, soprattutto prendiamo quella araba, tanto per capirci, ecco, questo insulto è vissuto come un attacco alla propria identità e quindi genera vergogna. E allora quello che ha fatto Alessandro mi sembra ottimo, cioè quello di relativizzare l'episodio, di attribuirgli un peso X, dato un certo contesto, perché l'attacco può essere anche suscitato, per esempio, da invidia. Certo, e di allora, cui noi ci punto, siamo occupati. Voglio leggervi un messaggio di Mario. Credo che la vergogna sia come un veleno, che però, come Mitridate, preso a piccole dosi, possa avere il merito di controllare la propria onnipotenza. Ci sono già alcuni messaggi che dicono il problema è che non, le persone non si vergognano più. Alberto. Ma io credo proprio che, essendo questa un'emozione sociale, la vergogna la sperimenti nel momento in cui, come diceva il professore, oltrepassi un confine che è definito, se è andato oltre, e in questo senso ha ragione proprio Mario da Bologna, cioè ha una sua funzione sociale regolativa, normativa, e uno dei problemi per una persona è crescere o vivere senza avere vergogna di nulla, perché quello significa davvero non mettersi più in relazione rispetto a valori che vengono condivisi. Essere svergognati effettivamente è una cosa che, sì, fa male agli altri, e probabilmente devi essere cieco per non accorgertene. Andiamo a Bergamo, ci aspetta Grazia, benvenuta e buongiorno. Buongiorno, io portavo un po' il discorso verso l'adolescenza in cui avete menzionato prima. Io, sì, ho una figlia che compierà 15 anni a giugno. Questa ragazza è sempre stata una ragazza molto timida, abbastanza timida, insomma riservata. Il problema rimane sempre questa vergogna di fondo che lei ha nel rapporto con i suoi insegnanti, che rasenta il rispetto, questa cosa, però vista dalla parte del professore, degli insegnanti, è come se loro mi dicono: non si mette in gioco. Non si mette in gioco, però, da parte sua è questo freno di vergogna che le è comunque sempre, come questo filtro davanti agli altri, è sostanzialmente vergogna, perché io l'ho detto, diventa rossa, tutti questi classici sintomi della vergogna, insomma, che una ragazza prova. È bello questo sentimento di rispetto, come comunque fa piacere, certo, però adesso crescendo io noto che è il primo anno di classico e lì l'impatto è stato molto forte. Lei insomma è un po' un freno a mano, grazie a quello che ha tirato la sua ragazza. Sì. Professor Annolli, lei che è un professore e che viene spesso a contatto agli esami con i suoi studenti, ci sono proprio ragazzi, e io dico ragazzini, ragazzi, ma anche adulti, uomini e donne, che proprio non si mettono in gioco perché sono invasi da questa emozione di vergogna, forse è una poca considerazione di sé. Ma allora, focalizziamo l'attenzione sui ragazzi, non sull'adolescenza, perché per evitare di fare un discorso troppo generale e rischia di essere generico. Allora, nell'adolescenza la vergogna ha due cause principali. Una legata al proprio corpo, eventualmente ne la affrontiamo sicuramente dopo. L'altra è legata alla costruzione della propria identità. Cioè, teniamo conto che l'adolescenza è un'età di passaggio in cui rivedi l'identità della fanciullezza, dell'infanzia, e ne crei una nuova da adulto. Sbocci, no? Sbocci, esatto, ecco. Per la presenza degli ormoni sessuali, eccetera, certo, eccetera. Allora, questa costruzione della identità può generare in parecchi ragazzi, ma soprattutto ragazze, un senso di inferiorità, un senso di inadeguatezza. Soprattutto se questa ragazza ha avuto dai compagni, da qualche adulto nel corso della sua educazione episodi di umiliazione, perché questo conduce ad avere una bassa autostima e una bassa considerazione di sé. E allora chi ha un senso di inferiorizzazione, un senso di umiliazione, è uno per esempio che si difende in continuazione per paura di essere, e ha quindi un'elevata sensibilità al rifiuto. E allora c'è tutte le forme di fobia che caratterizzano i ragazzi. Allora daremo anche delle istruzioni per uscire da questa sorta di gabbia. Sì. Naturalmente arrivano anche dei messaggi sul rimorso, provo vergogna per il rimorso che sperimento per un fatto. Un ascoltatore mi chiede di aiutarlo perché ha una parente che si vergogna perché ha questo grande rimorso di aver interrotto una gravidanza. Ci vergogniamo troppo poco? In quale situazioni? Ci sono persone che fanno scattare la nostra vergogna, la gente, situazioni, una classica, no? Quando andiamo a misurare un vestito, chiediamo una taglia, c'è uno sketch bellissimo di Geppi Cucciari, chiediamo la taglia, naturalmente una taglia piccola, ce la misuriamo, ma la commessa ci sbugiarda e dice: pronta una 46 per la signora che si sta misurando la 40. Insomma, ci sono tante situazioni, ma io vorrei tornare con il professor Annolli al messaggio che ci ha mandato Luisa, che chiedi per aborto, mia parente sta molto male per rimorso, perché questo ci dà la misura del fatto che la vergogna spesso viene confusa e sovrapposta al senso di colpa. Sono due situazioni distinte che si possono alimentare? Allora, sono di per sé due situazioni distinte. Diciamo subito in che cosa si distinguono vergogna e colpa. La vergogna è: io ho fatto qualcosa di terribile. La colpa è: io ho fatto qualcosa di terribile. Quindi allora nella vergogna c'è il fallimento di se stessi, la propria immagine, io. Nella colpa l'attenzione ricade sul comportamento. E quindi il comportamento è rimediabile, mentre quando io ho una caduta di me stesso, quello non è più rimediabile immediatamente. L'ascoltatrice è molto interessante, parla di rimorso. In questo caso è un rimorso di sicuro, ma è anche una ruminazione emotiva. Cioè, quando io faccio un fallimento, continuo a tornare con la mia mente su quell'episodio per giorni, mesi, e a volte anche per anni, e a volte anche tutta la vita. Prendiamo condizioni, ad esempio, di abuso. Allora, in queste condizioni, quello non è rimorso. Il rimorso porta alla confessione e alla riparazione, mentre la ruminazione mentale è semplicemente come la farfalla che gira attorno alla fiaccola, alla lampadina, e quindi non produce niente. Il problema è che le due emozioni, in alcuni casi più difficili, più complicati, anche più patologici, si mescolano insieme. E diventa un cocktail altamente tossico perché la predisposizione, l'inclinazione alla colpa si unisce all'inclinazione alla vergogna, e quindi questo è molto facile che conduca per esempio alla depressione, all'impotenza, alla fobia sociale, all'isolamento. Infatti professor Anolli, Alessandro da Crema ci scrive: all'inizio era solo vergogna, poi è diventata reutofobia, è stata durissimo, ho pensato spesso al suicidio, poi mi sono rivolta ad un angelo e ora sto veramente bene. Quindi un ascoltatore che ha provato a essere, si è sentito assolutamente invischiato da questa situazione che gli spaccava tutte le relazioni e ha chiesto aiuto. E allora io chiedo aiuto a voi: quando la vergogna arriva a un punto tale che va in qualche modo curata, affrontata con l'aiuto di un esperto, e qual è l'esperto che mi aiuta a farlo? Un parere di Alberto Pelai e uno del professor Anolli. Poi andiamo a Gianluca e Angela. Mi sento di darlo proprio per i genitori, soprattutto degli adolescenti, che sono in una fase della loro vita così attenta al qui ed ora, per cui loro rischiano davvero a volte, di fronte a un fallimento, di trasformare quel fallimento in "io sono fallito, per cui ho sbagliato", invece per loro la frase diventa "io sono sbagliato", tanto da non riuscire più a rientrare nell'esperienza in cui hanno fallito, a rientrare in un gruppo che ha visto il loro fallimento. Quando questo pensiero diventa pervasivo e porta al ritiro, proprio un genitore si accorge che un figlio travolto dalla vergogna non vuole più fare delle cose, non vuole più uscire con quelle persone, addirittura poi trasloca in altre esperienze della vita, lì è proprio il caso di aiutarlo, cioè di dire possiamo fare un piccolo percorso con un esperto. Professor Anolli, lei è d'accordo? Sì, sono d'accordo. Se posso, vorrei aggiungere che occorre uscire dalla vergogna quando la vergogna non diventa un episodio ma diventa un tunnel di cui non si vede l'uscita. Allora a quel punto, quando permane per parecchio tempo, bisogna evitare la cronicizzazione e bisogna cercare un aiuto, che per esempio si va dall'autoaiuto per le donne abusate, bambini eccetera, a uno psicologo, alla condivisione sociale, a un angelo. Mi piacerebbe sapere chi è questo angelo, ecco, perché sarebbe... No, è un medico, di cui medico. Mi fa nome e cognome. Sì, ma... sì, ecco, un medico che va benissimo, ecco. Cioè una figura, un tutor, una figura di riferimento che consente di venire fuori da questo baratro. Il problema è che la vergogna va trasformata in colpa e va relativizzata, cioè bisogna cambiare i parametri di giudizio nei confronti di se stesso, perché tutto se stesso non è legato ad un insuccesso, a un fallimento, a una trasgressione, ma la trasgressione o fallimento è comunque circoscritta. Andiamo da Gianluca. Buongiorno Gianluca, benvenuto. Buongiorno, senta, volevo prima riportare la mia esperienza e poi fare una domanda. Sì. La mia esperienza è questa: io provo spesso vergogna nel momento in cui non mi trovo all'altezza dei miei obiettivi professionali, nel senso quando faccio un confronto tra quello che vorrei essere e quello che sono e trovo questo scarto, e lì provo vergogna. Poi la domanda che vorrei porre in forma affermativa è questa: penso che la vergogna sia una componente, come dire, genetica, con cui nasciamo, squisitamente umana, ma che poi possa essere potenziata o manipolata dalle istituzioni, dalle politiche e dalla famiglia per fondamentalmente farci rispettare le regole, con l'efficacia di essere una regola che agisce dall'interno, che non deve essere né poi controllata e neppure sanzionata, perché ce la portiamo dentro. Professor Anolli, ha ragione Gianluca? Ma sul primo aspetto, che prova vergogna e quindi ha questa inclinazione alla vergogna per una autodelusione, questo è molto frequente. C'è una parte del suo libro in cui ci sono dei test, delle domande, sì. Che una riguarda proprio il fallimento sul lavoro. Sì. Se Gianluca è in linea ancora con noi, Gianluca. Sì, sono qui. Ha voglia, io glielo leggo. Se sul lavoro ti fermi fino all'ultimo minuto per fare un progetto che poi si è dimostrato un fallimento, ci sono diverse risposte. Io provo a leggerle. Ti senti incompetente. Pensi, non ci sono mai abbastanza ore in una giornata. Senti che meriti di essere rimproverato. Pensi, quel che è fatto è fatto. Gianluca. Io sarei alla seconda, non ci sono mai abbastanza ore nella giornata e sì, mi sembra che il tempo sfugga. Il tempo sfugga, professor Anolli, questo è... Non è vergogna questa che ha la risposta, perché la risposta era... Ti senti incompetente, mentre questa si chiama esternalizzazione, che attribuisce la causa del fallimento a qualcosa di esterno. La terza C era la vergogna e D era qualcosa di irrilevante, non per quel che fatto è fatto. Invece riguardo allo spunto di Gianluca che dice beh, è qualche cosa con cui nasciamo già, ecco questo com'è. Allora ci sono state moltissime ricerche a questo riguardo e bisogna dire che per fortuna, o comunque quello che è, almeno dal mio punto di vista, una fortuna, non ci sono basi genetiche per la vergogna. La vergogna è un costrutto culturale. Tant'è vero che la vergogna varia da cultura a cultura, da latitudine a latitudine. Le culture dell'onore provano molto più vergogna che le culture del nord. In Cina ci sono 113 parole per dire vergogna e la vergogna sono 9 emozioni diverse, quando da noi abbiamo soltanto vergogna e svergognato. E quindi là hanno diversi tipi di vergogna. Non puoi dire un cinese vergognati, devi dire di quale vergogna si tratta. E allora la vergogna compare insieme alle altre emozioni, colpa, orgoglio, imbarazzo, verso i 20-24 mesi, quando il bambino diventa in grado di riconoscersi allo specchio. E allora compare solo allora e il bambino diventa capace di consolare i suoi compagni se soffrono, atteggiamento prosociale, oppure è in grado di aggredire, punire, fare proprio il torturatore di bambini coetanei in maniera molto precisa, no, che è la cattiveria. Io voglio leggervi, prima di intanto saluto Angela che ci chiama dalla provincia di Brescia. Angela, buongiorno. Buongiorno. Allora, io Angela, intanto che lei è in linea, voglio leggere un messaggio di Gabriele che ci scrive: mi capita, sono Gabriele, mi capita sempre quando leggo in pubblico, parlo in presenza di più persone, avere vergogna, una voglia di piangere, di scappare, mi appare tutto nero e non riesco più a coordinare i pensieri, quindi scappo se posso. La voce trema ed evito sempre queste situazioni. Per guarire non vorrei andare dallo psicologo, c'è qualche metodo autonomo, Alberto? Ma il problema che ci racconta Gabriele è che la vergogna poi si trasforma in una sindrome ansiosa nel momento in cui deve fare quelle cose su cui lui ha sperimentato la vergogna. Ci vuole però un coaching, cioè il concetto è bisogna allenarsi, bisogna esporsi piano piano a quelle situazioni che ci fanno sperimentare quell'emozione che ci crea un grande disagio. Lo si può fare anche da soli, ma diventa molto faticoso perché io che sono la causa del mio problema dovrei risolvermelo. Non dobbiamo avere paura a chiedere aiuto, secondo me. Non vuole lo psicologo, può chiedere un vocal coach, di cui hai parlato anche tu nella tua trasmissione. Però si può uscire. Certo. Sì, sì. Oh. Angela, eccoci a lei. Ecco, io volevo raccontare questa mia esperienza che mi è capitato poco tempo fa. Proprio quando c'erano di mezzo le elezioni regionali, con una persona che mi sta molto a cuore e che devo dire io mi trovo un po', o mi sento un po' in senso di inferiorità nei confronti di questa persona, perché capisco che è una persona molto più istruita di me, quindi ho già dall'inizio quel senso di inferiorità, come dicevo prima. Lui un giorno stavamo parlando e così su due piedi, senza che io me l'aspettassi, mi ha fatto una domanda sulla politica, sui risultati politici. E io devo essere sincera, io di politica non me ne intendo proprio per niente. Non possiamo mica sapere tutto di tutto, no, ecco, Angela? Io gli ho dato una risposta un po' avventata, facendogli un po' capire prima di tutto che fosse sbagliato, da che parte stavo. Io non so da che parte sta lui. E poi mi sono resa conto di aver dato una risposta. E questo le ha procurato, insomma, si è sentita un po' nella condizione di chi perde la faccia. Evidentemente ad Angela, questo signore che lei ritiene più istruito e le mette un po', come si dice, soggezione, Angela tiene molto a questa persona, no? E che cosa potrebbe aiutare Angela a recuperare recuperare la faccia? No, con lei prima di tutto, recuperare il signore non importa. La faccia è che se questo partner, questa persona è più istruito, ha studiato di più, eccetera, Angela ha altre risorse in cui far valere le sue capacità. Dico, dalla cucina ai vestiti a tutto il senso delle cose. Giochiamo le nostre carte. Certo, no? Non si può fare un mercato unico. Certo. La società sono tanti mercati. Proviamo vergogna quando, fallendo in un mercato, riteniamo che in tutti gli altri mercati siamo falliti. Mentre, per fortuna, viva Dio, ci sono tanti altri mercati in cui siamo bravi. Può essere una chance. Mi vergogno di qua, provo di là. E certo. In linea con noi abbiamo Rocco Papaleo. Ciao Rocco. Ciao, buongiorno. Basilicata, Coast to Coast, grandissimo successo, ma io ho invitato Rocco Papaleo perché è un film che parla del Sud. Il professor Anolli diceva appunto che la vergogna ha diverse, cambia in funzione anche delle latitudini, e al Sud cosa succede, Rocco? Beh, al Sud diciamo la vergogna è proprio come una piccola cappa, no? Ti dicevo quando ci siamo sentiti prima questa espressione è vergogna, che significa è vergogna, e anche alzare la voce nella propria casa è come una specie di eccesso di discrezione, che le cose non si devono sapere, e c'è questa paura di stare all'aria in un certo senso, ecco. Quanto è utile questa, tu ripetimela tu che lo dice bene, vergogna. Vergogna. Ecco, in parte è utile e in parte frena. Beh, senso, cioè, certo che comunque più è un freno molto forte, nel senso che impedisce quasi, diciamo, di esprimersi. Ora chiaramente le cose sono cambiate. Io ti parlo di ricordi quando ero più ragazzo, abitavo dalle mie parti, però è anche, ha una sua accezione positiva secondo me, perché comunque ti induce alla discrezione, a non mettere in piazza sia il bene sia il male anche. Quindi, insomma, un po' di riservatezza. Che pure non guasta, diciamo. Tra i personaggi indovinatissimi, uno più bello dell'altro. Alberto, tu l'hai già visto? Sì, e mi è piaciuto molto. Anche le mie figlie, io andrò a vederlo venerdì. Tra i personaggi di Basilicata Coast to Coast, quale secondo te è quello più a rischio vergogna? Beh, paradossalmente è quello più evoluto, no? È il personaggio che interpreta Alessandro Gassman, che è una, diciamo, è un personaggio televisivo un po' in declino, che tiene nascosto per vergogna la sua vera condizione nel momento in cui parte la storia del film, e quindi vive ancora un po' con un allure così un po' da grandeur, però non dice la verità, la dice solo alla fine, che la sua storia, diciamo, più o meno artistica è finita. Senti Rocco, c'è stata un'occasione in cui tu, perché di solito uno si immagina gli attori, no? Capaci di fingere anche nelle situazioni e quindi di mascherare l'imbarazzo. C'è stata un'occasione in cui, recente, in cui tu sei arrossito o avresti voluto sprofondare o essere altrove? È vergogna, non posso dirtelo, per vergogna non te lo posso dire. No, voglio dire questo, più in generale, più che raccontarti che per quanto siamo capaci, no, almeno io penso, no, ormai dopo tanti anni di essere capace di recitare, non ho detto bene. E nella vita mi viene più difficile, soprattutto nella relazione, diciamo, nel corteggiamento, non riesco a creare un personaggio che potrebbe, insomma, sono vittima del vero sentimento, ecco. Quello fasullo della scena ovviamente lo domino e riesco, però nella vita non riesco ad applicare quei dettami che la mia professione dovrebbe, diciamo, dovrei usufruirne, non ci riesco. Senti, e la scena di tutti nudi? Cosa mi? E la scena in cui siete tutti... La nudità? No. No. Non è vergogna? siamo cresciuti così a casa mia, il bagno era sempre aperto, quindi ho visto nudi i miei genitori e... Devo dire che anche a casa mia non si riesce mai a tenere la porta del bagno aperta perché abbiamo un cane che le apre, quindi anche questo serve. Grazie Rocco Papaleo, Basilicata Coast to Coast, speriamo di vederti presto qua anche a Milano. Fammi sapere se ti piace. Sì, sicuro, vado venerdì. Allo spettacolo delle 8. Grazie, ciao. Grazie Rocco. Abbiamo Marco che ci chiama da Alessandria. Buongiorno. Buongiorno. Siamo qua. Sento un po' di eco, purtroppo. Comunque cerco di farmi capire meglio che posso. Sì, noi la sentiamo bene, Marco. Oh, benissimo. Io sono un insegnante, insegno in conservatorio. Sì. E posso far vergognare chiunque in qualsiasi momento, a mio piacere, dicendogli cantami qualcosa. Ah, è vero. Proviamo con Alberto Pellai. Immagino che appunto no, anche se chiedessi a uno di voi di accennarmi un motivetto, tutti vi schermi. Per cui dico sempre ai miei ragazzi che mentre si va dal medico e ci dice si spoglia e noi ci spogliamo tranquillamente, e se troviamo una persona che ci dice cantami qualcosa, è la vergogna massima. Marco, scusi, ma secondo lei che insegna musica, può imparare a cantare o cantare può aiutare in qualche modo a superare quella vergogna? Non parliamo di una vergogna patologica, quindi può essere liberatorio? Senza dubbio, io infatti ho chiamato anche sull'onda della telefonata di quel signore che diceva che si vergogna a parlare in pubblico o a leggere, e il mio consiglio immediato è quello di trovarsi un coro di appassionati, di amatori o un gruppo di amici per cantare, perché è proprio dove si comincia a tirare fuori la voce, ma si è mascherati dagli altri. Per cui prima di impegnarsi in prima persona, da soli di fronte a un pubblico, si lavora in team e ci si incoraggia l'uno con l'altro. Marco, mi piace molto, vediamo se piace anche al professor Anolli. Secondo me questo, siamo quasi in chiusura. Ma io ringrazio davvero Marco, perché con la sua esperienza ci ha dato proprio un consiglio pratico, provare a cantare in un coro. Ci sono due aspetti in quello che ha detto Marco. Da una parte la vergogna come potere, perché io chiunque ha una condizione di potere può fare vergognare un altro attraverso l'inferiorizzazione, l'umiliazione, eccetera eccetera. Dall'altra parte ha dato un suggerimento, un indizio molto interessante, che è il public speaking, che è parlare in pubblico, perché la vergogna ha a che fare con l'immagine pubblica e quindi è molto collegata all'imbarazzo. Allora io suggerisco ai nostri ascoltatori di intervenire, quindi all'824 0024, questo potete farlo domani, perché già intervenendo a Essere Benessere, che si occupa di voi, magari qualcuno di voi vince, direi, quel timore, quella vergogna, anche se un po' accennata. Insomma, diventiamo terapeutici. A domani, grazie al professor Anolli e ad Alberto Pellai, buonissima giornata.